avanti chi è? Fui Leoncino. E beh, a posto Dante. E mi sei a posto? Che cosa? Bruscio, che fischio che ci avevo? Perché si sente? L'ho messo a posto e controllato le stazionali, uno e uno. Mettila al massimo la cosa. Allora. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, no, sempre solo una cosa del genere, però il fischio non c'è. Vedi. Ma stasera lo stava facendo, come va? Perché... che diciamo è la questione del microfono, devo far controllare a coso, vediamo un po' cosa da Claudio, ce lo faccio controllare, rifà la stessa cosa che gli ha fatto quello di Antonio Panchetto, capito? Via via, è capace che vuole cambiare tutto il posto dove c'è la massa. Io so che è un periodo un po' strano, è strano, troppa gente si sta imbarrando gli apparecchi. Mi sa che c'è un virus allucinante. Chissà cosa c'è nell'aria, non lo so, già, non lo so. Vabbè, e la festa com'è andata, bene? Sì, bene, tranquillo. Io non è che abbia mangiato, è la verità. Mi sono mangiato una pizzetta, mi è venuto un bicchiere di Coca-Cola e un pezzettino di torta, l'importanza, non esagerare, hai capito? Adesso, mi alza sera, è arrivata mia sorella, che deve, domani deve partire a Londra e sono andato a fare la FRI. Ho preso una teglia di farina con cipolle lì in via Poligono, buona, veramente buona. Pinna? Da lì di fronte a via Poligono. Ah, è via Poligono, capisco, di fronte a Osteria di Pinna. Cappa. Fanno buona lì. Buona. E non conta neanche tanto. Sapirsi. E te invece ho letto la piazzetta, €6,50 dal lunedì al venerdì, la pizza costa €6,50 pizza più bibita. Io lo so perché ci sono già andato a mangiare, poi ci va mia madre con l'amica e so già, è veramente un'ottima pizza lì, e guarda già, te la consiglio quando vai a mangiare la pizza. La prossima volta che ci andiamo lì a mangiare a pranzo e ti faccio veramente te ne dici anche i baffi di quanto è buona quella pizza. Ce l'ho mangiato, se non è che ha cambiato gestore, ne ho mangiati lì di pizze. Non è quello della cassaforte. Cappa. Allora. Ho mangiato a voi, più di una volta sono andato in greffa con amici, con amiche e cose. Ma se costa così va bene. Allora, pizza, bibita, ho presa €6,50, due sono €13. E cosa vuoi di più? No, non è niente, posso prendere la pescatore, la marinara o i frutti di mare. Non c'è problema, qualsiasi pizza, €6,50 più la bibita, sì, vabbè. Non so perché ci va molto mia madre a mangiarla lì, capito, ogni giovedì, oppure capita ogni venerdì, e vanno a pranzo e vanno a mangiarsi la pizza lì, capito. E loro dalla quantità si fanno i soldi, capito. Non c'è tanto da guadagnare, però loro tanto se lo fanno ogni giorno. Sì, aprono all'una, guarda, ti dico che all'una è piena, perché ti dico, ti posso confermare che il loro il pranzo lì è sempre piena, perché devi poi devi anche prenotare, cioè quando non ci sono posti vai là e o ti siedi fuori, c'è anche i tavoli fuori all'ingresso. Guarda, ti dico veramente, ci va un bel di gente, ma un bel. Forse delle pizzerie, io non ne ho mai visto gente così, cazzo, perché è una pizzeria che è sempre andata quella lì. E vai a Polottoro, c'è una cosa, Massimiliano Ciri, a vedere se prende niente. Vai a San Gavino, lo stesso, tutto mio. Anzi adesso San Gavino, ho visto l'ultima volta che sono andato, non c'era molta gente, però è anche per la crisi che c'è e cosa, ma se ne va sempre in via. Ma adesso la gente va dove si trova bene, hai capito, dove sta comodo e tutto quanto, e vuol dire tanto, hai capito, dove viene servito, come Dio comanda, no? Nel frutto, qua. Ma io quando voglio mangiare una pizza ai frutti di mare preferisco andare a Polottoro perché c'è la roba fresca, dico la verità. A Sassa i frutti di mare non sono tutti che ti danno freschi, ti danno roba sott'olio, sott'aceto, a me non mi piace questa roba così, a me mi piace roba fresca. Che abbia proprio sapore di frutto di mare, oppure la bella prendo, mi prendo con la zuppetta di coso, di frutti di mare, è un po' che è buona, Isa. Lo so, vabbè, comunque, quando faremo quella questione là, ci andremo, organizziamo normalmente e ci andiamo a fare una bella mangiata già. E vabbè, non c'è problema, Isa. Non avere nessun problema. Io stasera per dire se volevo c'era ogni benedio da mangiare, ma non ne avevo voglia, dico la verità. Ho preferito mangiare poco. E sotto l'attacca se abbiamo mangiato una mozzarella e buona. E vabbè, giustamente, quando si diciamo non ne approfitti di là e tutto quanto, poi alla fine. Ne risenti parecchio, capito, ne risenti e non hai voglia di toccare niente. Beh. No, ma io già non ho mangiato molto, dico la verità. Ho gustato una pizzetta, un bicchiere di Coca-Cola e un pezzo di torta. Boh, non ho toccato altro. Mia moglie si è mangiato anche il travezzino, ma io non ne ho mangiato. Non me la sentivo stasera, dico la verità, non avevo proprio nessuna voglia. Capita che quando c'è il periodo che non è voglia di toccare niente perché subito sei disposto di stomaco, hai capito, e qualunque cosa che mangi ti viene nausea, hai capito. No, io la verità no, quell'urino però me l'ha fatto per due giorni così, che ero nauseato, mal di pancia, ma era il virus che c'era. C'era un meningite così, due giorni sono stato così, poi mi è passato. No, era proprio, non c'era voglia di mangiare, avevo mangiato bene a pranzo oggi. Quindi non mi è venuta molta voglia di mangiare stasera. Sono stato bene perché ho trovato molta gente, cose, abbiamo riso, scherzato, fatto, quindi siamo stati bene. L'importante è quello poi, l'importante è che sia passata una serata diversa dagli altri e essere stato bene in compagnia e tutto quanto ti fa anche piacere, capito? Ritorni a casa tranquillo, senza preoccupazione, senza niente. E oggi è perché non c'era bella giornata, se no io adesso me ne vado fuori, lo sai com'è, no? Io prendo e passo con la Refamia, me ne vado fuori a visitare i monumenti, andiamo al mare, andiamo a tutte le parti. In giro siamo, come c'è bel tempo, arrostiamo fuori. Va bene così, hai capito? Fuori dal mondo, dappertutto dei pensieri, lasciarli un'altra parte, lasciare il divertimento e tutto quanto, va bene già, non è che, anzi, non vorrei farlo anch'io, però so che adesso vediamo un po' cosa ne esce fuori in questa barada, hai capito? Attenzione, già sta di campo. Avanti, Falconero, buonasera. Così, forse tracca la metà. Non ho fatto ascolto, ma sono entrata là. Che tempo è questa? Lui siamo, 79, non è problema. Gianni Doppio Ru, ti rilancio Gianni Doppio Ru con la buonasera. E la Fabrio, buonasera a tutti. Quindi se ne sei, te la vedo, uccido. In tre siamo, poi bisogna brulare il buco, ma si intende. Buonasera a tutti, sì, vado a brulare il buco, ma c'è un po' valido che si è venuto da tutte le cose che si ma le mangiate le viene su bene, sì. No, è perché era una festa stasera, no? E lui mi ha chiesto se ho mangiato molto, ho detto no, oggi proprio non me la sentivo. Era una festa di compleanno, capito? O far cuore. E poi per se tu non lo vedo, possiamo mandare un altro. Che paga, ma a me piace stare in compagnia. Poi se roba da arrostire va bene. A cui dici tu, le tue due sono fatte tutte roba tutta, così è? Ma io voglio roba che ti sazia. E mi fai di gare, che si così a me piace, la banfetta. Ah, io ho compreso, lui, tu quindi tu da porta, sta lì se ti piace le cose, avanti piano lo spero, e a te lo ti piace dai bocca. Leoncino. Ah, Leoncino, avanti, quello ti piace a te. A me mi piace tutto, meno che la questione, quella che ci mangia con il sangue, quella non mi piace. Io mangio di tutto, pagando voi con una penna giovane, con tutto, e mi piace la penna di le mangiare. Vabbè. Mi pare che sia un male di tutti, isso. Solo Righini non mi piace. Quindi è una malattia buona che sta. È un grido, è quello che firma il maschio. Ah, vabbè, e tu Leoncino, cosa ne pensi di un altro amico? Io gliela appoggio, Falcone, io gliela appoggio, ma non si tratta di donne. Io mollo tutto e succede il patatrac, e da voi, se vesci in Europa, le avremo. Se non vesci, come dite, a mani a mano. Sì, tra poco di fretta tu, mettiamo la via amara, no? Sì, sarà Leoncino, è sincero, va. La sincerità ci vuole ogni tanto già, giustamente la verità, quando non c'è nulla, come dici, 5, 4, 10 e vai lì. Le gente sono passati, 40 anni fa, 43 anni fa, quando è andata via la borsa dell'Eva, e non so cosa lo sai già. No, racconta. No, questo è proprio da cosa è legata a voi se chiude chiesa. No, non si può dire che è stato, chiami. E vabbè, io gli faccio con un collega che sono singolo. Ah, se mi dico non lascio. Ma che ti ha detto il reme? Su di sì, se qui io vado, messo che rimbiare. No, io ti volevo dire una cosa di tanto tempo, ma non si può dire proprio questa cosa, se vuoi che ti chiedi a me. Avanti, Leoncino. E cosa fa? E cosa? E se questi chiedere che hanno 80 anni fa non andiamo alla bocca in leva? Ormai i tempi sono passati, sono già fatti e tutto quanto. È un preso che un minoretto ne sa più di noi, un preso, un ragazzino va, ne sa più di noi. Noi siamo diventati vecchi e gli altri stanno, no? Ci stanno facendo tipo da professore, noi siamo gli alunni e bambini sono i professori, ha preso. Avanti, bambini, lo prendo da pizza, lo prendi. Avanti, chiami. Oh, già, non siete qui. Ma se vuole è importante, ma non mi se ne va da cari. Ma se la porta è carriera, per me. Importante. Ah, se siete pure, la porta è carriera. Volevo sì. Oh, dimmi, fa com'è. Guardi, ha visto una cosa, ma se tu ci deve pure della porta. Ma la questione, lo fa com'è, risolterai la questione dello prezzemolo. Sono a posto, è stata me l'hanno visto, è stata la gente persa, è pure il posto dove la gente persa. Comunque le oggi 5 e 4 fa 9, non 10, te lo volevo dire poco fa. E vabbè, io ho detto 5 e 4, 10, 5 e 4, 9, vabbè, già mai capito già. Pagato. Falcone. Come pensa che c'era del Umberto Simono? Sono andato a posto d'oro da lì. Maledetto che il tasso è bene, Umberto Simono una mattetta, però pure ha fatto. Ma il tasso non sappiamo nulla. Così. Via. Dai, leggo un po' che dico che è a posto d'oro. Ma tu comprenderai, tu questo Umberto Simono mai ne ha piantato? No. Caro Brigadu, ma dove tu sei già salito? Io so cosa salisci, ma non iniziamo il paro, Ecco, dove non iniziai, che va? Tu hai portato dove non sapevi chi piantava lo zarretto. Vabbè, tu ridi pure Dio. Avanti, io sì. Ma te, c'è anch'io. Io sono socialista, però non iniziavi. Perché babbo era Diosi, mia madre è Teresa, dunque non sono sassarese puro, capito? Sono nato a Sassari, però non sono proprio sassarese di Ciavi, è preso. Quindi tu sei di Sassarese Accudito? Vero, io sono sassarese Accudito. E tu, Gianni? Mia madre era di Sassari, mio padre era milanese. Ecco perché fa l'accento continentale tu, Gianni. E tanto. Io sono toccato a dirlo. E quindi, anticamente, che tu era vestito, voi era vestito con il tuo capello, ha fatto il tuo, no? E tu, Gianni, con il microfono. Dove devo piantare? Avete non le macchine, con il sorrisere. Cosa vuoi dire che sono i suoi cinchi, macchine, così? E allora, manco mai io non so adesso il sorriso a coltello, che no, che tu non viene fatto a pizzica. Dimmi. Per carità, meglio fare queste battute, almeno ridiamo un po', Falcone, almeno scherziamo un po', almeno ci passa la giornata. E del resto tutto a posto, no, Falcone? Leoncini, come stiamo a pensare, Mario Monti, Aghita che danno, e che non avete detto che si sono tutti andati a montare un mese, roba di 21-23, quindi, se pensiamo a Aghita, allora è meglio come una Leoncini. Ma non era meglio fare una cosa? Gianni, le prese? E cade uno, e si risolveva un problema. Va, io devo stare a farmi un po' di metà, ma non mi posso trattenere per questo, capito? Sono bambini piccolini che devo andare a cercare il pannolino. Quindi, signori Pille, signori Brutti, vi saluto alle nuove occasioni. Ciao, Rocci, ciao Gianni, lo più room, a domani. Rispiega Gianni, ciao. Ciao Falcone, ciao. Salutami la signora che è lì. Purtroppo il dovere che chiama, e dopo devo entrare a casa, ma ad ognuno con lui. Ciao. Ciao però, stanno in bene. Avanti, io. Ciao Falcone, e cerca di lasciare stare i 5-4-10, è preso. Se fai in casa, non ci possiamo permettere più. Ciao, ciao. Ciao Falcone, avanti, io. Ui, per carità, Falconero, ui, e ne sai due trisce due. Ti devo dare una brutta notizia, sai, di nuovo innescato. Davvero? Ancora? Sì. Guarda. Ma tu non ti senti? No, non sento. Sì, sta pescando ancora. Perché cazzo, se me trauma vado. No, perché sono coricato. Io quando parlo al baracchino ricordi sempre che sono sdraiato. In 144. Allora, continuate, che vi ascoltate anche una cosettina qua là. E quindi già voi sto facendo bene, grazie. Ma c'è, gli viene attaccato. Ma cosa? Ciao. C'è qualcuno in sottofondo, se non sbaglio, già. O sto sbagliando? Io non lo sento. Ancora. Troppo mai finito. Sento qualcuno in sottofondo, ma non capisco il sito. Ma fallo venire avanti, se lo sento. Senti, non mi ascolta, vieni avanti. Ragazzi, come lo sentivo basso. Lo sentivo basso, ma ascolta, troppo amplificata è come radio questa. Questa qua, la tua. Zappa. Ma normale, va bene. L'amplificazione si sente? Poco. Ma cioè, è normale, ti diresti che è una radio normale. Una radio presente, però non amplificata chissà come. Devo vedere se funziona. Hola. Hola. Si deve essere staccato qualche filo. Dove si è staccato qualche filo? Ci sono i due streamer di dietro del microfono. Leoncino, riprendi. Beh, tutti i morti si sente. Oddio. Eia. Non si è fatto sentire nessuno stasera. Sì, c'è una grossa ruota stasera. Un po' tutti, c'era Tino, c'ero io, Claudio, è entrato Giulio, un po' tutti, c'era Leoncino, c'era Alessio, una rotta abbastanza vasta. Caparoggio, ora, siamo andati tutti a mangiare. Io ti dico la verità, io... A una certa ora me ne sono andato perché ho invitato a una festa, quindi sono andato via. E li ho lasciati tutti che parlavano, però poi non lo so, sono rientrato tardi, quindi non so dove, se siano andati a mangiare e poi hanno detto che tornavano, non lo so. Forse Leoncino più di me perché lui è a ruota. Leoncino. Sento Leoncino di Grotto. Non parla più, avanti a chi tocca. Qui siamo rimasti in due a ballare l'Alli Galli. Mi abbasso un altro po', se non è il caso. Non comprende, se io ti sennando e sapessa. Hola. Guarda un attimino il segnale, dammi un controllo come sto uscendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Aspetta. Hola. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2:30 Radio 5. E sei un po' compressa, Compressa, aspetta un attimo. È un po' compressa, possiamo togliergli un pochettino. Guarda un po' adesso. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. E adesso può andare bene. Ma guarda, adesso vedrai che per l'antenna la tolgo, questa qua ci metto la 2008. Credo di ottenere risultati migliori, perché è strano, sto uscendo troppo basso per essere nella posizione in cui mi trovo, capito? Dove sei perché? Direi gli astronauti, ma dovrei riuscire ad arrivare a una fucilata. Dovrei essere, essendo più in alto di te, essendo quasi a livello di Claudio come altezza, dovrei comunque sovrastare un attimino Sasse. Cazzo, sei 9:30 meno che non è che c'è tu che ci sentiamo nulla. Ho capito, ma è 9:30 staccata, in modulazione com'è? Ora. Va bene. La mia parte arriva sia 9:40, ma tu non ci arrivi, 9:30, punto. Tu invece sei 9:10, 9:20, in modulazione però arrivi a 9:30. Cavaga, sono normale. Io non sono normale. Perché sto arrivando quando prima non è normale, sentiva la compressione grudino. E adesso scusa, non sono normale. Guarda un po'. comunque, ti ho detto che mi sembra duro il Galaxy. Nel radioascolto stavo ascoltando, e beh non hai capito che cos'era. Non ho toccato niente, non lo tocco io. Io preferisco che vada in mano a chi sa dove mettere le mani. Direttamente, così almeno non facciamo ulteriori danni. Brava, ma cosa che ti volevo dire? Non mi hai detto che avevo già avuto problemi con l'apparato? No, assolutamente. Non era questo. Mi è parso di capire che avessi già avuto problemi di finali. Ma cosa è successo? L'hai spento, l'hai riacceso e poi cosa non funzionava? Non riceve più. Si sentiva più il QRM. Io modulavo, schiacciavo la portante, la potenza è uguale a prima, tutto quanto, però non mi sento, vedo solo la portante. No, quello che io ti ho detto, l'ho venduto, non ce l'ho più io. Ma tu quanti ne hai di questi baracchi? Allora, io di Galaxy ne ho avuto 5. La parola, ma adesso quanti ne hai in totale? E adesso ne ho 3, 4, 5. In generale di baracchini si dice? Sì, sì. Chi è avanti? Sono campane del Gasadui. Avanti. Oh. Chi era? A malapena la modulazione, ma non si sente niente. Troppo basso. Niente di me. E va bene, no, invece io oggi ero a Ustria, al lavoro. Ma c'è la festa? La nostra signora di Castro. È vero, te lo volevo dire io. Lavoro... Guarda, si lavora molto meglio quando si è in pochi. Quando ho queste grosse feste, è pieno di bancarelle, cioè, è dispersa la cosa, capito? L'attenzione delle persone è rivolta più a altre cose, no? Non fai gruppi banali. Ho conosciuto perché Gianluca è cordatore. Chi è? È passato, ma guarda, per un caso, lui forse aveva già capito che potevo essere io potenzialmente. Quindi a un certo punto mi ha sentito parlare perché ha fatto una partita, io ho risposto, dice ma c'è tu mobili, male. Mai avrei detto, non aspettavo completamente diverso. E io c'ero, lì c'ero una settimana fa. Infatti ero convinto che fosse abbiamo sbagliato i conti, siamo andati a farci un giro e siamo capitati anche lì. Hai visto che bello, ho fatto un po' di foto lì. Dove? Sua nostra signora di Castro. Si vede il lago, bellissimo, Perché fra l'altro stamattina, guarda, meno male non erano esatte le previsioni del tempo perché dava pioggia, tant'è vero che stavo per non uscire, invece poi alla fine sì, c'è stato un momento dove era stata una spruzzata, tant'è vero che c'era poca gente, però davvero un bel paesaggio, un bel panorama e fare una campagnata ci torno volentieri. Sì, c'è lo spiazzo davanti, c'erano dei pullman quando sono arrivato io, siamo entrati a fare visita a tutta la chiesa, eccetera, e subito ci si sono attaccati questi qua, dice se volete se facciamo, noi facciamo da cicerone, vi mostriamo tutta la chiesa, pagando 3-4 euro mi pare. Ho detto no, noi siamo venuti solo a fare delle foto e basta, tutto lì. Sappiamo già la storia, la conosciamo già. Ma chi erano? E quelli che ci sono all'entrata, penso che sia... Non so se sono laureati o che cosa sono, se sono ciceroni solo e basta. Quelle guide turistiche sono, io non è che siano niente di... Parolti. Sì, no, vabbè, sono studenti sì, che guadagnano alla giornata lì accompagnando i turisti, io non so, questo mondo che si muove. Siamo stati anche al lago, siamo scesi anche al lago. C'è un amico di coso, di passata che pesca lo stesso, che c'è il persico lì. E c'è un po' di gente pescando. Ma dice che quello lì sa di fango, bisogna invece abbassare, se vogliamo andare, porta lui. Se c'è già al lago ci facciamo un problema. Però dice, vabbè, invece pesce quello non è buono, invece il lago a me non piace. Anch'io avevo quell'idea lì. Una volta è venuto un amico a casa, mi ha portato 5 carpe. Quante cose hanno in volto? Non mi piacciono. Scusa se te lo dico, ma non mi piacciono le carpe, non ti piacciono. Te lo dico io come farle. Ma carpe grosse, mi sono dicendo, sono state 3-4 kg. Ne ha preso una decina. È andato al culo a pescare. Ha detto che una addirittura gli ha buttato la canna, questa è tuffata per prenderla perché era l'ultima canna che va a comprare ed era anche un bel buono. Come ha tirato gli ha buttato la canna, ha fatto il gomito. E niente, mi ha detto di farle così, di farle tutte a tranci, di spogliarli, come si dice, togliere le squame, di squamarle, di farle tutte a tranci, metterle sotto sale tutta la notte e poi di domani farle come si fa il baccalà, fritte. Così le ho fatte, stare le cavelle dita, non c'erano sapore di nulla, di fango, di cosa, non ne avevano sapore, avevano sapore di pesce proprio buono buono. Non è fatti di sale, poi il pesce che vive nell'acqua salata che acquisisce comunque più sapore, per questo motivo, perché c'è il sale dell'acqua marina, capito? A prescindere da questo, guarda che alla Lidl stanno facendo di nuovo le offerte per la pesca. Ho visto che ci sono cose, qualcosina di interessante, c'è tipo il coppo che è il tuo professionale, ripiegabile, è interessante come prezzo. Il mio oramai è vecchio, mi ha fatto di bel lavoro quel coppo, oramai è vecchio, frasico, ogni tanto lo devo mettere in CRC perché non scorre più, prima era una cosa veloce, lo aprivo, lo faccio adesso un po' si è arrugginito in certi punti eccetera, se lo trovo bello, secondo qualche cosa non lo prendo. Buonasera. Ciao Sandro, buonasera anche a te. Ciao Sandro, mi hai sentito? Scusate un attimino. Sento un ruggito, mi confermate? Sì, lo sentiamo anche lui. E come mai? C'è ciabatte, sa? Non lo so, vabbè, dai, comunque, buonasera Gianni, ciao Antonio. No, ho detto, deve essere qualcosa sul microfono, perché tocco il microfono. Deve essere qualcosa di massa, vai. Ok, riprendi già. Ehi, ben entrato, ben sentito, compagna di Grod e di Leoncino, se rientra, perché poco fa abbiamo chiamato e non ci ha risposto. Anzi, rilancio tutto a Leoncino, poi vediamo un po', se non risponde lui, ripeti tu, Antonio. Sono qua già, ero andato un attimo in bagno. È entrato Sandro. Buonasera Sandro, Tigre, ora buonasera. Ciao carissimo Leoncino, buonasera anche a te, dai. Va bene, niente mio, ho acceso giusto così per vedere, per far scaldare un attimino e mi stavo ultimando qualche cosettina. Va bene signori, ho sentito solo carpe, sotto sale, in forno con le patate, sono buone già. Allora io le ho fatte fritte come il baccalà, mi metto a farle così, io sinceramente il pesce di fiume non è che lo ami tanto, è che lo amavo tanto, perché adesso anche le trotte salmonate mi piacciono, fatte in una certa maniera, col vino bianco in forno, aglio prezzemolo, vino bianco, qualche pomodorino in mezzo. E poi come stretto di fuori un po' di limone sopra e sono una sciccheria. Sì, Sì, no, sono buone, sono buone. Se sono sapute fare, sono buone, vanno bene. Figurati che io il primo pesce che io ho assaggiato in di acqua dolce, diciamo, di lago, è stato quando mi sono sposato. Ho fatto tutto un fanato, diciamo, ricevimento nel paese di mia moglie. Paese di mia moglie è Mandas, Isili, Orroli, dove c'è un famosissimo lago, si chiama Lago Mularcia, è un lago abbastanza grosso, grande, alimenta Cagliari e così via. Lì è stato in vita mia che ho assaggiato il pesce, diciamo, la tinca e la carpa. Ma lì ci sono anche le cascate. Non ti ho capito tu. Lì se non sbaglio, ci sono anche le cascate di Mularcia. Esatto, le cascate del Mularcia, detto, penso, proveniente dal lago Mularcia. Poi ci sono, non so se lo sai, c'è il famoso nuraghe, nuraghe a Ruvio. Del tuo paese sto descrivendo. Sì. Non posso? Niente nel fatto. Ahia, mia moglie non vuole. Ah, ma chi è della tua 50? Ma di dove è di Isili? Non ti ho capito, tu di? Isili. No, la mia 50 è di Orroli, sempre provincia di Nuoro, confine. Adesso è passato Cagliari, però la mia dietro era in provincia di Nuoro, che vicino c'è il paese prima. Comunque c'è un altro paesino, Lurri. Davvero, ti conoscevo qualche amico che veniva da, adesso di cui non ricordo il nome, che studiava all'università d'agraria qua a Sassari di Orroli. E dovrebbe essere comunque vicino, abbastanza vicino a Isili, sì. Sì, a Isili sono circa, una cosa ti posso dire, saranno circa una quarantina di chilometri, penso, all'incirca, sono, sai, sono strade tutte a curva, sai, qua. Però ti posso dire che sinora, diciamo, sono dei paesini ancora vergini, diciamo, dai. Cappa di Roggio, no, le cascate del Mularcia comunque sono molto belle, no? E anche il lago, assolutamente sì, belle, sono delle zone davvero da andare a vedere. Purtroppo noi con la scusa che, diciamo, ci possiamo andare quando vogliamo, io sono andato una volta in Brasile, in Argentina, due volte a Venezia, e a vedere queste cose, queste bellezze che poi c'hai dietro l'angolo, non ci sono mai andato, vedi? È il classico ragionamento da sardi. Sì, girano di più turisti che noi. Io quando sono andato lì, dove sei andato tu oggi, ho trovato dei turisti francesi, gli ho parlato francese. No, ma ci sono i tedeschi soprattutto, conoscono la Sardegna a menadito, guarda. E girano bene, anche i milanesi no. Io ho un'amica milanese che conosce più zone di me, è stata più zone della Sardegna di mare che io. Ma ho già a pensare che noi Sardegna ne abbiamo dei posti veramente diciamo originali, veramente diciamo come madre natura li ha creati, diciamo, ancora sono, capito? Solo che è come stava dicendo Antonio, preferiamo girarci fuori dalla Sardegna che girarci prima alla Sardegna. Allora io ti dico la verità, come comincia bel tempo, lo sto facendo anche Giuseppe, ha una grifa di amici, andiamo sempre, giriamo tutta la zona della Sardegna, dove capita andiamo. Una domenica, non posso la domenica, adesso lo stiamo fuori, eccetera. Questa domenica è successo così, sono andato perché il bel tempo non lo permetteva. Abbiamo visto che c'era brutto tempo, cosa facevo? Se no saremmo stati in giro anche questa domenica. Domenica scorsa siamo stati lì al lago a Cosa. Ci abbiamo girato un bel po' di posti, siamo andati alla foresta petrificata, abbiamo messo un sacco di po' di roba. Scusate, riprendo io un attimino, vado un attimino in quel se rimango al radioascolto perché ho bisogno davvero di farmi una doccia. Ci sentiamo fra un attimo, riprendo dopo. Riprendi Giuseppe. Papà, buona. Buona. Cosa hai detto? Buona doccia? In ordine. Vabbè, allora buona doccia Antonio, ci sentiamo dopo. Riprendi Sandro. Ok. Ok, Arturo, dai. Io non lo so se ritrattengo ancora per molto. Dai, se coincide ci ascoltiamo ancora più là. Se no, buona serata alle prossime. Sì, sì, già, ci sono, ne abbiamo dei bei posti. Solo che sarebbe l'unico, sarebbe, sai, un camperino, senza andare sull'esagerato, un piccolo camperino, girartela, capito? Prenderti per dire 10-15 giorni col camperino, ti parcheggia e cosa? Soltanto che al giorno d'oggi col camperino c'è di aspettarsi anche la tassa sul camper, Te la danno lo stesso perché adesso sono tutti organizzati i campeggi, non ti fanno più fermare col camper così, non è come prima, no? E poi anche senza camper noi lo facciamo, siamo organizzati, abbiamo graticola, tutto quanto, quando dobbiamo andare arrostiamo, facciamo, giriamo, non ci fermiamo mai solo in un posto, giriamo, facciamo anche chilometri e chilometri dopo il primo posto che abbiamo visto. Dipende sempre dalla Puglia che sia. Ci sono dei posti, guarda, sono bellissimi, tutti i posti che ho elencato, anche Claudio gira per lavoro, me l'ha detto che li conosce anche lui, tutte quelle zone lì, Martis, non so se tu hai mai visto la foresta petrificata. No, dov'è? Martis. Ah, a Martis, ho capito. Vabbè, Martis poi non è mica fuori lontano da qui, No, appunto, ci sono delle cose che girangole ci sono. Però, per dire, è una foresta dove ci sono gli alberi pietrificati, alcuni coricati, alcuni sono ancora infilati nel terreno, perché la storia dice che praticamente questo nuraghe in eruzione li ha riempiti di lava e li ha fatti pietrificare. E poi lì c'era un fiume invecchiata e li ha raffreddati. Raffreddandosi si sono pietrificati. Ho capito, sì. No, vabbè, ma a me mi è capitato adesso, potrebbe essere, diciamo, una stupidaggine, degli alberi proprio coricati lì adesso in paese, diciamo, e così via, degli alberi proprio coricati, ma coricati perché si trovano in certi punti dove la maggior parte c'è sempre quel po' di vento. E quindi essendoci sempre quasi, eccetto diciamo quei mesi d'estate, poi nell'arco dell'anno diciamo qua. Tutto lì. No, ce ne sono cose veramente da scoprire e da vedere. E a voi sa. Dove ti giri c'è sempre da vedere. Tutta la voglia di cercare, di girare. Noi guardiamo molto su internet, chiediamo, io ho un amico che ha molto contatti con gente dei paesi, dice ma dove c'è un posto da vedere nel vostro paese, questa e quella, c'è ancora che ci sono. Siamo andati a visitare diversi posti, i castelli di Doria, tutte queste cose qua. Ehi capa, no va bene, ma guarda io sono già, cos'è, circa, saranno già circa 6 o 7 anni fa che mi sono trovato in un periodo dove ero in stand by. E allora tramite mio cugino che aveva un furgone daily frigo che lavorava lì alla Grindi, ce la ricordi la Grindi? E allora siccome ero in stand by mi ero offerto io e avevo girato la zona di Nuoro, vabbè, a parte tutta la costa. Poi avevo girato lì il carcere che c'è lì a dopo Nuoro, che adesso mi sembra che sia una colonia penale quella lì, non so se te la ricordi. Padre Carlos. Bravo, esatto, Padre Carlos, proprio l'ho portato lì dei, mi sembra, perché io ero un po'. Degli frigo, quindi mi sembra che erano roba di scatolame o roba di salume, una cosa del genere. E poi diciamo lì la barbaccia, insomma, quei posti lì. Io lì sono andato anch'io a consigliare quando ero con Lattini, sono entrato, ti chiedevano il documento all'entrata, poi ti mandavano lo spazio e c'erano c'era stesso i carcerati che ti davano la maschera in casa. Sì, esatto. E quindi quella la volta che ho avuto, diciamo, un po' l'occasione di poter girare una sfacchinata, perché una grande sfacchinata, mi ricordo ci uscivo il mattino alle 4 o alle 5, ma consegne, diciamo che avevo, mi sembra, quelle 10-15 consegne, quindi non erano poi tanto, diciamo, uscivi da lì, piccoli paesi, e te li facevi, e rientravi la sera, capito? Lo so, ma è la strada che tanta, non è tanto le consegne, è la strada che un bel, magari anche gli articoli erano leggeri, non erano pesanti, eccetera, eccetera, però quando fai un bel di strada è brutto, ti stanca. Esatto, più che altro era la strada, i chilometri, diciamo, non tanto, diciamo, quelle poche consegne, però insomma è stata anche un'esperienza anche quella lì, dai. Appagato. Andare avanti, chi vuole entrare? Se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Vedi Leoncino. Cappa, sono tanti posti da vedere, sono belli quando c'è la possibilità, caro Sandro, il discorso è quello, che tempo ce n'è poco, e quel poco che devi utilizzarlo per fare tante cose, commissioni, però piacerebbe a me avere un po', non dico molto, a me mi basta una settimana dedicare solo a questa cosa qua di fare i giri, andare a conoscere paesi, quella roba là, montagne. Mi piace camminare lo stesso e tutto quanto il discorso, perché mi piace poi anche prendere, a parte quello, mi piace pigliare aria pulita, capito? Perché ti togli tutto quanto il peso che c'è da addosso, lasci tutti i problemi a una parte e ti rilassi parecchio, come la storia quando andiamo io e Gianni. Cioè andiamo a pescare, quando capita ci togliamo tutto quanto il peso da addosso, ci facciamo la nostra pescata tranquilla, ci rilassiamo e pensiamo altro, capito? No, solo facciamo una giornata diversa come tutti quanti. Ok dai, già lo so, dai, già lo so. Dipende, cioè delle volte magari siamo anche noi, magari che un po' che ci lasciamo andare a pensare magari che qua a pensare solo magari che devi fare chilometri, che questo e quell'altro, magari poi diventiamo un po' pigri e non andiamo, diciamo, a approfittare a conoscere la nostra terra. Va bene, ripeti già. No, già è bello uscire, perché tanto quando stai in casa fai sempre le solite cose, oppure ti annui e mangi, invece quando esci hai tante cose da vedere, ti distrai. Poi noi non è che ci soffermiamo solo sulla cultura, se vediamo asparagi prendiamo asparagi, prendiamo bietole, ci divertiamo a fare tutto. Ehi, va bene. Va benissimo, e diciamo più che altro per non stare rinchiusi in casa, dai. Va bene, e vabbè, anche quello, diciamo, è uno stimolo per non rimpigrire, diciamo, in casa, capito? Va bene. Mio C, allora, com'è? E com'è? Bene, stiamo tirando avanti, Sandri, piano piano. Adesso stiamo facendo queste 3 ore per parte del corso, assolutamente utili. Queste 3 ore non sono molte, però mi danno al mese, mi danno queste 250 euro, però Sandri, non c'è altro, sei costretto a fare quello lì perché non c'è altro, per l'età che ci abbiamo noi, quello, diciamo, non è un piccolo aiuto che non è che ti salvi molto, hai capito, non è che ti salvi molto, però un po' non puoi neanche stringere la cinghia, perché non è un discorso, capito, però comunque quelle 250 euro ti fanno comodo, perché c'è da pagarti quello, c'è da pagarti la bolletta della luce, e riesci un po' a fare tutto quanto quella cosa lì, però non è proprio il massimo. A me ci vorrebbe che un colpo di fortuna che mi dovessero prendere piscio, allora le cose cambiano e tutto quanto. Lo so, non è. Siamo in una fase, diciamo, un po' grigia, un po' critica, diciamo. E lo so, è una piccola goccia, è una goccia come una goccia nell'oceano che non fa niente, però diciamo è quella goccia dove puoi riuscire, diciamo, a tamponare, diciamo, qualche buchetto, chiamiamolo così, dai. Purtroppo siamo in una fase ancora in salita, capito? Ancora in salita. I nostri obiettivi sono sempre nel lato positivo, sperando che si sblocchi qualcosa da quello, ma è in tutti i settori, guarda, è grigia, veramente grigia in tutti i settori, quindi sono tempi dove bisogna stringere la cinghia, diciamo, capito? E bene già. È un casino, questi tempi, se non finisci la cinghia alla fine che vai fuori, anche con i soldi vai fuori conto, no? Bisogna fare un po' di economia in tutto. Economia, bisogna giorno per giorno, guarda, bisogna essere equilibrati, capito già? Equilibrati, non è come per dire c'hai 5 euro in tasca e poi dire vabbè, ne approfitto. No, oggi le 5 euro in tasca vogliono dire tanto, veramente tanto. Guarda, io oggi pomeriggio, perché dovevo fare una commissione a Sassari, sono passato a Città Mercato, dovevo fare qualche cosettina. una, se sarà state, chi era sarà state? Sarà state le 4 o le 5. Gianni, una desolazione. E lo so, adesso che si deve mangiare la pizza ci deve pensare due volte. Vedi la pizza diciamo che è un qualcosa, diciamo, di, non è che sia un qualcosa di particolare o che cosa, però vedi la pizza oggi la pizza è diventato lusso, capito? Giustamente, come hai detto tu, sa che la pizza oggi è diventata un lusso. Ci sono giorni che proprio non c'è niente da mangiare. Beh, dici adesso, andiamo, ci ordiniamo due pizze e mangiamo due pizze. Però non può evitare sempre a porta di pizza ogni giorno, caro sa. Il discorso è quello, il piatto della pasta asciutta non lo mangi tutti i giorni, però a volte un giorno sì, un giorno no lo mangi. La fettina non la mangi tutti i giorni, quello lì è il discorso. La cosa costa cara e deve andare sul risparmio, però il risparmio, il discorso è questo qua. Se ritiri quella cifra lì, e dove risparmi? Scusa Essa, dove andiamo a risparmiare? Se tutto quanto sta aumentando, carne, benzina, sigarette, tutto quello che vuoi, alla fine siamo sempre lì, giriamo e siamo sempre a punto di partenza. Tu vai sempre sul risparmio, ma dove risparmi? Non hai proprio risparmiato niente, perché un pacco di pasta ti costa, io sto facendo un esempio, 1 euro e qualcosa, 1,10 euro. 1,10 euro mi compro un chilo, posso dire un chilo di pane, capito? Sì, sono pienamente d'accordo con te, Giuseppe. Sono pienamente d'accordo con te, logicamente uno, secondo me, l'entrata che ha risparmia fino a un certo punto, perché oggi una margherita, una semplice pizza con mozzarella e pomodoro, non voglio sbagliarmi, ma mi sembra che costi intorno ai 5 euro e 50. E quando in casa, per dire, sei in 2 o 3 o che cosa, quelle 15-17 euro ti escono fuori, cioè ti partono, per dire. E poi magari o una berletta o ti vuoi bere un bicchiere di vino, insomma. Tutte queste cose qua, logicamente, siamo lì. Ma io mi auguro di non voler tornare ai tempi dove ognuno cercava di coltivare il proprio orticello. Giustamente dice, io prima stavo bene, lo posso dire a testa alta, stavo bene perché ero a spese dei miei genitori e avevo un'attività che i miei genitori hanno costruito da terra sino al coso, si sono fatti grandi così loro, e dunque ci hanno dato una possibilità di poter mandare avanti questa questione. Solo che il discorso è questo qua, che non, con tutte quante le cose che c'erano, tutto quanto là, noi figli non ce la siamo sentita di poter mandare avanti, perché c'erano problemi, e allora alla fine, poi dopo che ha mollato mio padre, che se n'è andato, abbiamo dovuto rinunciare perché c'erano questi problemi qua, non per il coso là, c'erano problemi finanziari, capito? Sa? Lo so, e purtroppo il percorso della nostra vita non è che sia sempre rose e fiori, logicamente. ognuno nel suo percorso della vita trova i momenti positivi e i momenti, diciamo, un po' negativi. Però purtroppo è fatta così la nostra vita. La nostra vita è fatta di alti e bassi. L'importante è non cedere. So che è difficile, perché è molto difficile, capito? È molto difficile, però l'importante è che ci sia lo stimolo di poter, diciamo, arrancare, diciamo così, dai. Riprendi già. Gianni. Io. Yeah. Riprendi tu, dai. Papà, io riprendo, ti saluto perché sono stanchissimo. Giuseppe, buona giornata, domani ci sentiamo, così mia. Ciao, buonanotte, che adesso fuori. Ciao Gian, buonanotte, buon trabacco per domani e ce la risentiamo domani, dai. Avanti, ciao. E ok, ciao Gian. Buonanotte, buon inizio per domani, dai, ci risentiamo alle prossime. Va bene, capito? Guarda, io oggi adesso per farti un po' l'esempio, ieri sono sceso in campagna e mi sono fatto un po' di pietole, poi mi sono fatto un po' di fave, che ho piantato un po' di fave. E diciamo che oggi ho pranzato con fame e bietole, per dirtene una mia adesso. Sì. Beh, giustamente uno quando, il discorso è quello lì, quando non c'è la possibilità, sa, ti arrangi come vuoi, come puoi, capito? Che sia minestra patate, sia quello, sia fave, sia pomodori, sia citrio, melanzane, quel che è coltivato dalla tua cosa, è giustamente che sei uno che se ne intende della campagna e che te fai quella cosa lì, è tutto quanto di guadagnato. Però no, il discorso è un altro, il discorso è questo, che uno, io devo ringraziare, lo dico a testa alta, devo ringraziare che c'ho ancora mia madre che è in vita. Poi un domani che se ne dovesse andare mia madre, io non so cosa fare, cosa non fare, perché io mi vedo scendermi il mondo, hai capito, sa com'è il discorso, il mondo fra le braccia, capito, no? E dunque io ho sempre fatto a disposizione sempre con i miei genitori tutto quanto, dalla nascita sino adesso mi hanno sempre campato loro, però io qua una volta che non ho più l'altra parte del genitore devo rimboccarmi le maniche e tirare avanti, capito? Però invece mi verrà un po' di salita, capito? Lo so, ma guarda che adesso tu, diciamo, mi hai fatto un esempio, diciamo, del tuo percorso, ma guarda che quel percorso di vita lo hanno affrontato molti altri prima di te, capito? Molti, ma molti prima di te. Quindi in questo caso tu adesso, la persona che un po', diciamo, la vita l'ho assaporata, diciamo, la sto assaporando, ho passato momenti particolari, ho assaporato lasciare la famiglia e farmi la valigia e andare fuori a lavorare, cioè quella non ti mettere il problema se mi manca mia madre, io sono perso e non riuscirò più ad andare avanti nella mia vita. Anzi, quello lì dovrebbe essere un incoraggiamento per dire che tua madre, diciamo, tuttora ti sta dando, diciamo, un conforto morale, perché, diciamo, è tua madre e così via. Però se cominci già da adesso a metterti quel problema, sbagli un po', Sì, d'accordo con te, d'accordo con te. Sì, è giustamente quello che ti stavo girando, no? Che io devo ringraziare che c'è mia madre ancora. Poi, o domani, che se ne deve andare via tutto quanto, cercherò rimboccarmi le maniche e andare per la mia strada, perché fermo non mi sto, perché questo è garantito, fermo non sto. O una maniera o l'altra devo riuscire a tirarmi avanti, hai capito? In quanto ho fatto e ho costruito con le mie mani, e dunque non ho... Poi mi dirà, la ruota girerà per tutti quanti, deve girare per tutti, e verrà quel momento che la fortuna girerà, perché deve girare, e se no è inutile, siamo sempre a punta in campo. Ok, ma vedi, c'è questo anche da dire, che delle volte la fortuna ce la dobbiamo creare con le nostre proprie forze, con la nostra propria esperienza di vita e quant'altro, diciamo. Lasciamo perdere il discorso che il treno della fortuna dice che passa solo una volta. Il treno della fortuna spetta a noi crearcelo, capito? Non è che dobbiamo aspettare quando arriva il treno, siamo noi che ci dobbiamo creare, diciamo, e andare avanti. E logicamente il nostro percorso di vita è quello che è, perché ci viene male, diciamo, accettare il discorso che noi andremo a finire completamente, diciamo, e questo è un sacrosanto, chiamiamola percorso di vita nostro. Quindi ci viene male, capito, ci viene male accettarlo, però purtroppo è la natura, questa è la natura nostra, capito? Però quello che ti posso dire, consiglio d'amico, mai abbattersi. Giustamente, il consiglio l'accetto, lo sai, io l'accetto come un fratello, hai capito? E può essere come un fratello tu. E dunque la questione è sempre quella che bisogna sempre andare avanti, il discorso è quello lì. Però senti quando andare avanti, sennò devi stare a essere così in queste parole che... Hai capito? No, comunque. Adesso piano piano tiriamo avanti, un po' oggi, un po' domani, poi riusciamo ad andare avanti con questa cosa. Poi un domani, che se il coso, il Signore ci dà la fortuna di avere, io non dico di, io non pretendo, io pretendo solo una cosa, che questa fortuna faccia il suo corso, poi punto e basta. Ok, dai, l'importante, diciamo, è sempre sul lato positivo, capito? Anche se tu mi dirai, ma lo so, potrebbe andar meglio, nella vita non ho avuto quelle piccole soddisfazioni che molti altri hanno avuto, non mi sono permesso per dire un qualcosa che un altro più di me ha avuto, ma già fortunati, io ti posso dire, quando la sera ce ne andiamo a dormire e il mattino ci svegliamo per affrontare la giornata, quella, caro Giuseppe, quella è già una grande fortuna, dai. Quello lo puoi dire forte giustamente, un posto letto, tutto quanto ce l'abbiamo, grazie a Dio. La mattina quando ci svegliamo facciamo colazione, tutto quanto, ci troviamo verticale, parliamo più del meno e raccontiamo quello che è capito, che abbiamo fatto la sera, è verticale. Al baracchino si può dire tutto quanto, almeno che quella roba lì, è giusto i piccoli discorsi che quella roba lì, hai capito? Vabbè, comunque, tiriamo avanti, sa, caro Sandro, tiriamo avanti. Io di cordo non mi butto giù, perché no. Non è vai manco a pensare, cazzo mi faccio scendere già adesso che ho 45 anni, figurati quando ne devo compiere 60, 80 o 90 anni, quando muoio, cazzo mi devo godere la vita, non ho capito. Lo so, vabbè la vita diciamo uno se la può godere come meglio crede, diciamo, anche nel suo piccolo, guarda. Anche nel suo piccolo, non c'è bisogno diciamo che abbia diciamo le tasche piene di soldi, perché renditi conto diciamo che i soldi diciamo guarda fanno fino a un certo punto, fanno fino a un certo punto i soldi, oh Giuseppe, tu non lo sai, io nella mia vita ho avuto una grande batosta. Una delle batoste più grandi che un padre diciamo di famiglia non vorrebbe mai avere nella sua vita. E grazie a Dio io vado avanti diciamo con la forza maggiore che vedevo mio figlio per quanto era grintoso, per quanto era pieno di vita, per quanto delle volte mi vedeva incavolate per stronzate, per tutto quanto che lui mi diceva sempre, dice papà, rilassati, calmati, vedrai che tutte le cose si mettono a posto. Ecco, solo pensare così, che lui mi diceva così, io già questa, mi dà questa forza di poter andare avanti. Tante domande, tanti perché, però logicamente sono appese al muro, però per forza maggiore, per come era lui, giorno dopo giorno devo andare avanti, Giuseppe. Sì, giustamente tuo figlio ha avuto ragione, bisogna andare avanti e fare quello che è necessario per tutto quanto, capito? Per la famiglia e per tutto quanto, giustamente, perché lì la famiglia è tutto, e dopo che tu ti hai costruito una vita, tutto quanto, tu con tua moglie, ti avete fatto una famiglia, tutto quanto, quello che hanno fatto i genitori lo devi ricambiare nel buono, per loro, capito? Perché anche loro domani che si faranno una famiglia avranno l'esempio dei genitori, capito? Ok, dai, vabbè, dai, l'importante è che ci sia la salute e poi pian piano, diciamo, pian piano tirare avanti. Vabbè, dai, ti lascio che c'ho il signorino qua che devo portarlo a farvi la sua passeggiatina. Dai, ti lascio, dai, ci sentiamo le prossimine, con tutto le prossime. Ok, sa, mi ha fatto piacere del Colosseo, è tranquillo e spero di averne altri con te tranquilli e come questo e come stasera. Mi ha fatto piacere, va bene, per adesso ti auguro il buon 144 quando lo farai, salutami la famiglia e un buon trabacco per domani che se deve andare a trabaccare. Va bene, buonanotte. Ciao Giuseppe, buonanotte anche a te.